Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Queste linee guida, con il prossimo DPCM, a cui lavoreremo da subito dopo questo passaggio parlamentare, dovremmo decidere eventuali ed ulteriori misure di allentamento, su cui oggi ascolterò con attenzione le valutazioni della Camera dei Deputati, dopo aver ascoltato ieri sullo stesso argomento le argomentazioni e le riflessioni pervenute dai nostri senatori della Repubblica. E avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fare capolino, diciamo così, nella informativa oggi del ministro della Salute Speranza, del nuovo DPCM che sta per arrivare, cioè del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, del Consiglio dei Ministri, che dovrà praticamente dare inizio a nuove aperture. Ormai ci siamo abituati, no? A questi DPCM che hanno man mano segnato le tappe dell'uscita progressiva dal lockdown e all'inizio invece proprio alle chiusure, alle misure restrittive. Bene, dal 15 giugno, per esempio, perché stanno uscendo delle anticipazioni, in realtà è una bozza del decreto ancora, quindi nulla di sicuro, però ormai la si sta pubblicando. Da lunedì, quindi dal 15 giugno, sì, al calcetto, al beach volley, agli sport di contatto, quindi la box, arti marziali, e poi l'apertura di centri estivi, aree per i bambini, cinema, teatri. Per le discoteche invece bisognerà aspettare il 14 luglio, però poi ci addentreremo dentro a queste specifiche, almeno per quanto riguarda le anticipazioni, e ci occuperemo naturalmente anche di numeri negativi che purtroppo oggi arrivano, sia per quanto riguarda i contagi, che c'è una leggera risalita, sia per il calo forte della produzione industriale italiana e anche per la giornata nera per i mercati. Per i vostri commenti, le vostre riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure per i WhatsApp è il 349-238-6666, 349-238-6666. Tra poco gli ospiti, ma prima, come sempre, la sintesi della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: risalgono i contagi nel nostro paese, i nuovi casi sono 379, in 10 regioni nessun decesso. L'epidemia è in calo ma non è finita, avverte il ministro Speranza. Il sindaco di Bergamo attacca la regione e dice sono stati secretati i dati per provincia sui morti. I vertici della regione rispondono è falso. Le prossime aperture: in arrivo il nuovo DPCM per la fase 3, dal 15 giugno via libera a sale gioco e aree per bambini, sia gli spettacoli, cinema e teatri, per le discoteche solo dal 14 luglio. E dopo 3 settimane di apertura, bar e ristoranti registrano un calo del fatturato del 53%. Economia italiana: la produzione industriale ad aprile tocca il fondo, meno 42,5%. Mercati, giù le borse per le stime prudenti della Banca Centrale Americana e i timori per una nuova ondata dei contagi. Piazza Affari perde il 4,8%. Occupazione male per i laureati nei primi mesi del 2020, tranne che per i medici, più penalizzati i giovani del sud e le donne. L'Unione Europea e i viaggi: aprire tutte le frontiere interne entro il 15 giugno. Cautela per la revoca della chiusura delle frontiere esterne. Partiamo quindi, come sempre, dai dati sul coronavirus in Italia forniti dalla Protezione Civile. Sono 53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro paese, in calo rispetto alle 71 di ieri. È il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrate 52. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque dall'inizio della pandemia a 34.167 e sono saliti a 171.338 i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 1.399. Torna a salire il dato giornaliero dei contagi, con un incremento di 379 casi rispetto a ieri, la maggior parte in Lombardia. 4 regioni, Sicilia, Umbria, Val d'Aosta e Molise, non hanno nuovi casi. Ma il ministro della Salute Speranza avverte: l'epidemia non è finita, e proprio la regione Lombardia torna nel mirino dei sindaci. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia, e l'accusa su Twitter del sindaco di Bergamo Giorgio Gori alla regione Lombardia, che si difende. La diffusione dei dati, dichiara il Pirellone, continua a essere la stessa, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala rimanda i bilanci. I conti finali, dice, si faranno più avanti. Milano ha resistito, anche se dirlo può sembrare irrispettoso, aggiunge Sala, avendo avuto circa 1.900 morti. La curva dei contagi in Italia è in calo e i dati sono confortanti, ma il virus non è stato ancora sconfitto. Lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera. L'epidemia non è finita, ci sono ancora focolai di trasmissione attivi. Il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. E Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, invita a non farsi trovare impreparati a gestire una seconda ondata che, se dovesse mai esserci, spiega, non avrà le dimensioni e la portata della prima. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo all'inizio, sono in arrivo nuovi allentamenti delle misure anticontagio. Da lunedì via libera anche agli sport di contatto, slitta invece la riapertura di discoteche e fiere. Intanto lo sport. Sì, a partite di calcetto, basket, pallavolo, pallanuoto, beach volley, tornano anche box, arti marziali, a patto che sia accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori in conformità con le linee guida. Rinviata invece di un mese l'apertura delle discoteche, il governo adesso ne ha fissato la scadenza al 14 luglio, insieme a sale da ballo, fiere e congressi. Da lunedì riaprono le aree gioco nei parchi, ville e giardini pubblici per i piccoli, insieme ai familiari oppure alle persone che se ne prendono cura. Confermate le limitazioni per gli spettacoli dal vivo, il numero massimo di spettatori, 1.000 all'aperto e 200 al chiuso, e le misure di prevenzione da adottare. Riaprono anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, se le regioni ne stabiliscono la compatibilità con la situazione, i centri benessere e le terme. Fino al 30 giugno gli italiani potranno viaggiare solo nei paesi dell'Unione Europea. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci ritorniamo, intanto seconda giornata oggi di trasferta a Roma per i magistrati di Bergamo che indagano sulla gestione dell'emergenza e sulla mancata zona rossa della Val Seriana. Domani gli interrogatori più attesi, quelli del Presidente del Consiglio Conte e dei ministri Lamorgese e Speranza, poi sentiremo che aggiornamenti ci sono su questa inchiesta. Passiamo intanto all'economia, con l'industria italiana ad aprile che ha toccato il fondo con un tracollo del 42,5% rispetto all'anno prima, una cifra che insomma dà la misura quindi dell'impatto economico dell'epidemia. Senza comunque la farmaceutica e l'alimentare sarebbe andata ancora peggio, e tra poco poi torneremo su questo tema. Giù comunque il tessile, non solo in Italia. Inditex, la società a cui fa capo Zara, annuncia la chiusura di 1.200 punti vendita e un'accelerazione delle vendite online. Nel primo trimestre le vendite sono scese del 44%. In crisi anche il trasporto aereo. Lufthansa potrebbe tagliare fino a 26.000 posti su scala mondiale per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus, mentre Alitalia riparte e annuncia da luglio oltre 1.000 voli settimanali. Gli aerei voleranno su 52 rotte e 37 aeroporti, dei quali 19 in Italia. Protesta del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che dice non è possibile continuare a subire i capricci della compagnia Alitalia, che si mantiene in vita col denaro dei cittadini. Denuncia Musumeci e poi viene a fare i capricci se in Sicilia un volo è più o meno redditizio. La replica di Alitalia dice: negli ultimi tre mesi Alitalia è stata l'unica compagnia a garantire la mobilità aerea dei siciliani. E siamo alle borse, i timori per una possibile seconda ondata della pandemia da coronavirus e la preoccupazione della Fed, la Banca Centrale Americana, sull'andamento dell'economia statunitense affossa le borse europee che dopo una giornata di tensioni chiudono tutte in profondo rosso, con Milano che chiude in forte calo col FTSE MIB che lascia sul terreno il 4,81%, non va meglio Parigi che perde il 4,71%, Wall Street peggiora di ora in ora, adesso ha accentuato il calo, il Dow Jones in questo momento meno 6,07, il Nasdaq meno 4,69. E intanto c'è l'allarme del segretario del ministro del Tesoro americano che dice non possiamo chiudere di nuovo l'economia, e poi cercheremo di capire meglio le ragioni di questo scenario. Siamo alla politica italiana con la convocazione degli Stati Generali. Una kermesse a Villa Panfili con il no dell'opposizione. L'evento voluto dal premier Giuseppe Conte come fase di ascolto per il rilancio dell'economia si aprirà sabato e si chiuderà ufficialmente domenica con una conferenza stampa dello stesso Conte. Un ritardo dovuto anche alla testimonianza del premier ai PM di Bergamo sulla mancata zona rossa. Il centrodestra conferma non parteciperà, così Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. No, noi chiediamo al confronto con il governo nelle sedi opportune, a fare i confronti con il governo. Noi siamo parlamentari della Repubblica Italiana e se il Presidente del Consiglio vuole parlare con noi basta che venga in Parlamento. Il no del centrodestra ricompatta la maggioranza per il ministro degli esteri Luigi Di Maio. I prossimi stati generali saranno un importante momento di dibattito. Anche il PD, dopo le prime perplessità, dice sì, anche perché a partecipare saranno il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli e il commissario agli affari europei Paolo Gentiloni, espressioni del Nazareno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Consiglio dei Ministri oggi sul Family Act. Il capogruppo del PD, Graziano Del Rio, lancia l'idea che bisogna dare il via libera all'assegno unico per i figli, stralciato dal provvedimento sulla famiglia al varo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Del Rio. Appena approvata la delega dobbiamo correre subito a fare un decreto legge attuativo dell'assegno unico, ecco, non può essere rimandato molto a lungo vista la difficoltà certamente, però è una buona notizia, abbiamo lavorato con la ministra Bonetti bene, stiamo collaborando, il percorso in Parlamento si conclude appunto tra pochi giorni, almeno in Commissione siamo molto soddisfatti di questo passo in avanti. Parlavamo appunto della crisi e l'allarme lanciato dalla FIPE, dalla Federazione Italiana Pubblici Esercenti, che dicono che bar e ristoranti dopo 3 settimane di apertura hanno registrato un calo del 53%, poi ne parleremo. La riforma del CSM, ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al Question Time oggi al Senato ha detto la professionalità delle donne in magistratura va valorizzata e la cosiddetta riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, attualmente in cantiere, improntata alla valorizzazione assoluta della preparazione della competenza dei candidati che aspirano a incarichi apicali, deve chiaramente, ha detto Bonafede, garantire parità di accesso nei ruoli in questione, così come all'interno del Consiglio stesso. E poi la nuova tragedia del mare, di cui già vi accennavo ieri sera, il naufragio avvenuto l'altro ieri al largo della Tunisia, il bilancio fino adesso delle vittime di 50 morti, tra cui molti bambini e donne, di cui una incinta. All'estero l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che l'emergenza coronavirus nel mondo sta peggiorando anche se in Europa è migliorata. L'ha detto il direttore generale Ghebreyesus. Nelle ultime 2 settimane sono stati registrati 100.000 nuovi casi di Covid-19 in un giorno. Il 75% dei contagi, ha sottolineato, sono stati segnalati in 10 paesi, nelle Americhe e nel sud-est asiatico. Stati Uniti, Thomas Lane, uno dei 4 poliziotti coinvolti nella morte di George Floyd, è stato rilasciato su cauzione ma con condizioni dal carcere della contea di Hennepin nel Minnesota, lo riporta l'emittente CBSN. Lane ha pagato una cauzione di $750,000, lo riportano i media locali. Stringimi teneramente l'abbraccio dopo il lockdown, nel periodo del distanziamento sociale, delle notizie spesso negative che arrivano a causa dell'emergenza legata al coronavirus, un abbraccio in sicurezza sembra essere quello che ci vuole. Gli studiosi della Tokyo University in Giappone hanno analizzato ciò che rende una coccola perfetta, arrivando a una conclusione: importante è non stringere troppo forte. Per la ricerca sarà pubblicata sulla rivista Cell, di cui è stata data anticipazione, un team della Tokyo University in Giappone ha misurato l'effetto calmante sui neonati di abbracci per i quali si esercitavano diverse pressioni, approfondendo anche se vi fossero differenze in base al fatto che a fare la coccola fosse un genitore o un estraneo. Sono state monitorate le frequenze cardiache dei piccoli e le pressioni della mano degli adulti con appositi sensori, e ben emerso che i bambini sono stati calmati più da un abbraccio di media pressione che da uno semplice, mentre l'effetto rilassante è diminuito nel caso di un abbraccio stretto. Quindi abbracciate teneramente. Lo sport, la stagione 2020 del campionato mondiale MotoGP inizierà il 19 luglio a Jerez in Spagna, doppio appuntamento per la MotoGP a settembre a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si terrà anche il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per l'appunto. La prima gara è in programma nel fine settimana dell'11 e il 13 settembre, subito dopo in quello del 18-20 settembre debutterà il nuovo Gran Premio. Non vi spaventate, ma semplicemente la rigorosa tutela di talune specie animali previste dalla direttiva europea Habitat si estende anche agli esemplari che si spingono fino ai centri urbani. Parliamo dei lupi, lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea in una sentenza in cui specifica che la cattura e il trasporto di un lupo trovato in un villaggio possono quindi essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall'autorità nazionale competente. Quindi vanno protetti anche quando si spingono nei centri urbani. Bene, direi di chiudere questa prima parte della puntata e poi così tra poco, dopo la viabilità, cominciamo ad approfondire i temi con gli ospiti. Anche per esempio avete ripreso voi andare di nuovo nei bar, nei ristoranti, e se no per quali motivi? Torno a Ratta come la Folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo allora ad addentrarci in alcune delle notizie principali insieme agli ospiti. Intanto stavo guardando i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Ci sono i vostri messaggi appunto sul fatto, l'allarme lanciato dalla FIPE per bar e ristoranti, e voi andate, siete ritornati, andate a mangiare fuori oppure no, e se no per quale motivo. Walter dice: bar al mattino ok, ristorante una volta al mese forse, dopo tutta la mia attività palestra rimasta chiusa 3 mesi, adesso devo far recuperare ai clienti, quindi poche entrate, poche uscite, dice Walter. Mentre Bruno dice: credo che un motivo sia che con lo smart working molte persone non pranzino più vicino all'ufficio in pausa pranzo e non vadano più al bar a prendere il caffè del metà mattino, ma spero anche che cambino le abitudini e ci siano più persone che escano da casa la sera dopo la giornata in lavoro agile, che frequentino i locali, i teatri, cinema la sera, come succede in altri paesi europei, dice Bruno. E tanti vostri altri messaggi sul fatto di essere tornati o meno in bar e ristoranti e anche quali sono i motivi. Ma adesso saluto il nostro caro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao caro Alberto. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Con cui voglio trattare due notizie che si sono assommate una all'altra, purtroppo oggi danno i numeri negativi. Le borse che affondano per i timori per la seconda eventuale ondata con l'Europa in profondo rosso, e anche abbiamo visto anche Wall Street poco fa, e poi la produzione industriale italiana impicchiata. Vuoi la busta numero uno o numero due, Alberto? Guarda, temo che abbiano lo stesso valore. E allora partiamo dall'industria italiana, che ad aprile ha toccato il fondo con un tracollo del 42,5% rispetto all'anno prima, e una cifra che appunto, Alberto, dà proprio il senso, la misura dell'enorme impatto economico che ha avuto il coronavirus sulla nostra economia, anche se poi ci sono delle differenze, no, per settori. Per esempio la farmaceutica e l'alimentare sono andate decisamente meglio. Sì, esatto, è così. È il segnale che era atteso, per la verità, della glaciazione che è accaduta all'economia dovuta alla pandemia da coronavirus. 42,5 è un dato drammatico, non sarà mai visto. Dentro a questo calo mensile, cioè aprile su marzo, il 19,1, ci sono differenze. Come hai detto tu, appunto, la farmaceutica e l'agroalimentare tengono. È drammatico il dato dell'automobile. L'automobile praticamente segna il calo del 100%, diciamo la verità. È un totale raffreddamento di qualunque modalità di consumo di auto. Senti, scusa, a questo proposito, Alberto, un piccolo inciso: ti risulta che il governo stia pensando degli incentivi? Naturalmente da parte delle case produttrici la richiesta c'è, si parlava anche del parco macchine rimasto invenduto, no? Su tanti grandi piazzali, eccetera. Era solo così. Chiaramente è una discussione che è ancora aperta. Il tema però è quello di riuscire a incentivare la rottamazione o incentivare solo l'acquisto delle nuove vetture. Non è la stessa cosa, certo. Chiaramente ha un impatto molto diverso per i consumatori, perché se ti limiti a incentivare solamente l'auto elettrica o ibrida, chiaramente sta incentivando una fascia di consumatori alto spendente e comunque benestante, diciamo così, perché sono modelli che comunque hanno dei prezzi base molto alti. Invece, se vuoi fare un'operazione che sia un po' più popolare e più larga diffusione, naturalmente devi scegliere l'altra strada, che però non ha, come dire, un riscontro sull'impatto di sostenibilità e sulla svolta green che invece tutti vorrebbero avere. Una scelta difficile, comunque. Se vuoi, sì, torniamo al nostro, certo, dato di produzione con un'ultima sottolineatura, per esempio che tutto il settore tessile ha avuto un una brutta botta, perché il calo è dell'80%, quindi quello è un altro dei settori che ha patito moltissimo. In termini geografici è il nord-est che patisce più delle altre aree geografiche italiane, e significa che è soprattutto il blocco dell'export, perché il nord-est è la locomotiva italiana sul versante export. E siccome è rimasto congelato per l'appunto dopo il blocco totale della pandemia totale, ha avuto un contraccolpo molto forte. Quindi la soluzione è, anche nel medio periodo, riuscire a incentivare la domanda interna, perché probabilmente dalla domanda estera non riusciremo a recuperare le performance di prima, e palesemente l'anno è praticamente compromesso. Quindi praticamente i consumi delle famiglie bisognerebbe incentivare, no? La richiesta interna. Bisogna incentivare i consumi delle famiglie e consentire alle imprese di riaprire a pieno regime, insomma, di spiegare tutta la capacità produttiva che hanno nei prossimi mesi, quando usciremo effettivamente e definitivamente, spero, dall'angoscia del coronavirus. E a questo proposito, chiaramente l'unico segno più rispetto a marzo, dicevamo, si registra per la produzione dei farmaci, essendo stata questa un'emergenza sanitaria. Sì, farmaci, logico. Parte dell'industria chimica, anche i detergenti naturalmente, certo, hanno avuto un grossissimo boom. Invece l'altro tema, sempre appunto negativo, è la giornata nera, come si dice, delle borse, no? Che sono affondate per i timori relativi a una possibile seconda ondata. C'è stata la preoccupazione della Banca Centrale Americana, Fed, sull'andamento dell'economia americana, che ha affossato anche le borse europee. Quindi queste due cose, col ministro dell'economia americano che ha detto noi non possiamo permetterci di chiudere un'altra volta. Questo ha allertato ulteriormente, no, diciamo, il clima. Certo, anche perché c'è la grande ansia da seconda ondata del virus, che sarebbe devastante per chiunque, perché anche solo in termini psicologici, dopo tutto il lockdown che il mondo ha dovuto gestire, immaginarne un secondo davvero avrebbe degli effetti esponenzialmente superiori. Però purtroppo la situazione è questa: l'aumento dei contagi negli Stati Uniti è molto preoccupante, questa stagione di proteste che sono fatte evidentemente in modalità che possono creare fortissimi nuovi contagi, no? Le grandi proteste di piazza per la morte di George Floyd però hanno esposto milioni di americani a ulteriori contagi, quindi è una situazione preoccupante. Ed è un elemento che non viene sottolineato abbastanza, ma quello è fortemente a rischio, quindi è chiaro che metterebbe in ginocchio la principale economia del mondo, diciamo la verità. Ulteriormente sarebbe drammatico per tutti, è evidente, per questo c'è questo effetto alone anche sulle altre borse, comprese quelle europee, dove per la verità l'uscita dalla fase 1 del virus, del lockdown, sta cominciando a funzionare, sta cominciando a creare effetti anche positivi, perché la cosa che non abbiamo detto prima, in alcuni paesi, compreso l'Italia, stanno recuperando per esempio i consumi di energia elettrica, che vuol dire che gli impianti stanno girando, ci sono molte aree, molti distretti anche in Europa che stanno riprendendo a pieno regime perché stanno arrivando gli ordinativi, le catene del valore di fornitura e su fornitura nelle varie aziende, le catene del manifatturiero hanno ricominciato a funzionare con gli scambi di pezzi e di ordini che funzionano, quindi ci sono segnali anche positivi che vanno colti e vanno anche sottolineati in questa fase. Certo è che se però, per esempio, dagli Stati Uniti venisse fuori una seconda ondata dei contagi, che magari si spalge e crea di nuovo un problema, sarebbe davvero devastante, certo, per tutti, evidente. E poi c'è l'avvertimento anche del Fondo Monetario Internazionale, che parla di c'è il rischio di 100 milioni di nuovi poveri, no? Che si va ad aggiungere appunto l'allarme dell'OCSE e le stime della Fed sulla crescita e soprattutto sul mercato del lavoro. Alberto, vedo molti messaggi di ascoltatrici e ascoltatori, perché poi parleremo a proposito di crisi, difficoltà, di settori in difficoltà, anche di bar e ristoranti con l'allarme della FIPE. C'è per esempio Antonio, pagina Facebook di Effetto Notte, che dice: ristorante sono andato ma credo che non ci tornerò presto, troppo brutto stare al tavolo con la mascherina aspettando il cameriere che arriva bardato di guanti e maschera, sembra di mangiare in una clinica, ti toglie il gusto e la gioia di uscire a mangiare. Mentre Manuela dice: io esco volentieri se i locali mi offrono cibo sano e buona musica, possibilmente dal vivo, che forse al momento è ancora difficile, almeno che uno non sia un che suoni da solo. E poi invece questo ascoltatore scrive: cara Roberta, bar e ristoranti sì, anche quelli cinesi, questi ultimi mi sono sembrati tra i pochi ad aver veramente distanziato i tavoli in maniera considerevole, comunque in generale tutti rispettano le regole e l'atmosfera è sufficientemente rilassata per potersi godere il relax. Vedi, tanti punti di vista diversi. Floriano dice: sì, ma ancora poca gente, distanziati, con mascherine, senza giochi, c'è tristezza, prima di tornare alla normalità passeranno mesi. Mentre Rossella dice: pochi soldi, come autonomo solo due bonus INPS e quindi non ci vado. Mentre Estia dice: io ci vado e come, mi è mancato il bar, la gelateria, ora mi siedo, ordino e respiro. Tu, Alberto? Sì, io anch'io faccio parte degli ottimisti, anche se sto sempre qua dentro, quindi non è che ho grandi possibilità forzatamente di frequentare questa cosa, ma, quindi ti capisco bene, visto che anch'io sono qua fino a tarda sera, per cui Alberto, una volta ci diamo appuntamento io e te andiamo insieme, che dici? Usciamo di va qua bene, verso mezzanotte e via. Grazie caro Alberto Rioli, a presto allora, poi ci insegniamo per appuntamento. Buona continuazione e buon lavoro, mentre noi ci prendiamo una pausa di sospensione brevissima, di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi, le vostre riflessioni tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure c'è il numero per WhatsApp, SMS, anche se so che ormai scrivete quasi solo WhatsApp al 349-238-6666, poi c'è il Twitter di Effetto Notte, oppure l'altro Twitter è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e voi siete ad ascolto di Effetto Notte, come per naturalmente da lungo tempo siete al posto giusto, nel momento giusto, anche durante tutto il lockdown che piano piano si sta, diciamo, dissolvendo, anche se, come ha detto oggi il ministro per la salute Speranza, il coronavirus continua a girare. Però dicevo, prima abbiamo parlato appunto dei numeri della produzione industriale, del calo profondo in Italia, dei mercati eccetera. Poi parleremo adesso anche di un settore in difficoltà, e non solo quello, abbiamo visto anche il tessile, le auto eccetera eccetera. Però all'inizio avevo parlato del nuovo DPCM che sta per arrivare e dovremo sentire tra poco Conte, perché io quando ve l'ho raccontato all'inizio brevemente vi dicevo di varie anticipazioni che scorrevano nelle agenzie dell'ANSA, quindi una bozza di cui si parlava fino a poco fa, ma è possibile che tra poco invece compaia proprio Conte ufficialmente a dire quali saranno le novità del prossimo decreto del Presidente del Consiglio per la fase 3, quindi quella che parte dal 15 giugno. Da lunedì dovremmo riuscire a sentirlo tra pochissimo. Vediamo un po' se si sente. Vediamo un po'. No. Anche con il ministro Provenzano. No. E quindi una. Ancora una no, vabbè. Aspettiamo, me lo dite dall'altra parte del vetro, appena sta parlando Conte, perché le anticipazioni di qualche, diciamo, un'ora fa più o meno, un'ora e mezza fa che vedevo, parlavano della possibilità, intanto 10 articoli in questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio, validi fino al 14 luglio, che Conte si appresta a firmare per il nuovo step di riapertura, il nuovo passo, la nuova tappa di riapertura della cosiddetta fase 3. Vedo solo che salta tra le cose previste lo sport di contatto. Sentiamo Conte però. Da questo punto di vista è molto rigorosa la disciplina. È un'app che non invade quindi i vostri spazi di riservo privati. Sta parlando dell'app Immuni in questo caso. Ma nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti, tra virgolette, sospetti. È un'app di cui siamo fieri perché in tutta sicurezza garantiamo un servizio in più a tutti i cittadini italiani e siamo stati i primi in Europa, tra i primi, se non addirittura i primi nel mondo occidentale, a giungere a questo risultato molto sofisticato dal punto di vista tecnologico. Quindi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio con la Ministra del Lavoro Catalfo e la Ministra per le pari opportunità, la famiglia Bonetti. Internazionali più rigorosi e accreditati. Probabilmente sul Family Act. Un'ulteriore novità, a decorrere dal 12 giugno riprendono, questa sera ho appena firmato un nuovo DPCM, da questa sera riprendono, dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse, quindi anche la Coppa Italia di calcio per intenderci, e comunque senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli che sono stati emanati dalle rispettive federazioni sportive al fine di prevenire ovviamente le occasioni di contagio. Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo sono consentite a condizione che le regioni e province autonome abbiano preventivamente preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica. Ancora dal 25 giugno riprendono gli sport di contatto, o meglio, possono riprendere gli sport anche di contatto, quelli amatoriali ovviamente, non professionistici, se le regioni, ma anche il Ministro dello Sport e il Ministro della Salute, accertino che ricorrono ovviamente, ricorre alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica. Ricordo ancora che riaprono i centri estivi anche per i bambini in età da nido, da 0 a 3 anni, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto, ma con alcune cautele e precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati, all'aperto o al chiuso che siano. Restano sospese sino al 14 giugno 2020 le fiere e i congressi. I corsi professionali potranno essere svolti in presenza, le attività di centri benessere, di centri termali, culturali, centri sociali sono consentite, ma anche qui a condizione che regioni e province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. E in materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore, quindi 5 giorni, il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. Vi ringraziamo, vi ringrazio in particolare le ministre, il ministro Gualtieri che ha lavorato anche con loro per questo importante raggiungimento, per questo Family Act. Grazie. Conferenza stampa, quindi abbiamo sentito di Conte che ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, come vi anticipavo all'inizio, finora erano uscite solo bozze, però ha a questo punto detto come andranno le cose, quindi slittano in realtà di qualche giorno, slitta la ripresa degli sport di contatto, doveva essere proprio dal 15 giugno, e poi sulle discoteche che saranno chiuse invece fino al 14 luglio. Ho detto 14 giugno, ma si è sbagliato perché in realtà la data è quella del 14 luglio. Poi fra le altre cose stavo guardando che da lunedì sempre riaprono le aree giochi per bambini, i centri estivi, le sale scommesse, come dicevamo, i viaggi all'estero riprenderanno gradualmente, visto appunto che ancora probabilmente fino almeno al, per esempio, le crociere sono sospese fino al 14 luglio. Nei paesi esterni all'Unione Europea, esclusa la Gran Bretagna, non si potrà andare fino al 30 giugno. Insomma, poi man mano che ci sarà un testo sarà anche più facile raccontare più nel dettaglio come andranno le cose. Quindi adesso, a proposito di aperture, dal 18 maggio sapete, ricordate che hanno aperto bar e ristoranti. Intanto continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. E naturalmente hanno riaperto dovendo seguire i protocolli di sicurezza previsti per evitare i contagi. Ma dopo 3 settimane ci sono ancora grandi difficoltà per i pubblici esercizi, con cali del fatturato che si attestano in media intorno al 53%, mentre solo in un esercizio su tre il personale è tornato al completo. Questi sono quindi dati negativi che emergono dall'indagine condotta dal Centro Studi della FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per analizzare appunto l'andamento di bar e ristoranti in questo periodo dopo la fase 2. E su questo allora coinvolgo Aldo Cursano, che è vicepresidente vicario della FIPE. Buonasera Cursano, bentornato. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Quindi le cose, insomma, avete riaperto, ancora non vanno benissimo. Abbiamo riaperto, ma non siamo assolutamente ripartiti, perché ancora questa percezione di paura frena, ostacola i cittadini a fruire delle proprie città, dei propri luoghi di socialità, e questo mette in serio pericolo la tenuta di un modello identitario composto proprio da piccole, piccolissime imprese che fanno la vita, la socialità, il nostro proprio stile di vita, che proprio un modo di vivere che oggi rischia davvero di restare al palo, perché le persone non frequentano i centri storici, non frequentano soprattutto i nostri locali. Rimane solo l'ambito della fine settimana, per grazia di Dio, almeno i ragazzi, i giovani osano un po' di più, cercano di riconquistare con la movida i loro spazi, il loro senso di libertà, di socialità, e quindi vanno anche se sa che i sindaci sulla movida si sono incontrati con la ministra Lamorgese proprio in questi giorni, chiedendo un po' una stretta dei controlli, perché se riparte il contagio Cursano è un bel problema, sarebbe, no? Nel senso che dobbiamo bisogna sempre mantenere le sicurezze, condividere un po' la responsabilità. Noi proprio abbiamo pensato a questo modello condiviso anche di prevenzione, assumendo proprio attraverso agenzie steward specializzati che possono proprio attenzionare questi ragazzi con il sorriso, con un atteggiamento, voglio dire, positivo. Però diciamo che funziona poco e nulla, se quel poco che funziona lo andiamo a mettere in ginocchio, poi le dura. Secondo me bisogna accompagnare ad avere atteggiamenti un po' più consapevoli, ma non ostacolare, perché credetemi, le aziende, chi ha aperto rischia di richiudere, chi non ha riaperto non riaprirà più, e quindi questo è un momento importante, perché se i cittadini non si riappropriano del loro stile di vita, se non frequentano i bar, i ristoranti, i nostri negozi, noi rischiamo davvero di mettere in ginocchio un modello identitario del nostro paese, perché non si regge. Ci sono le uscite, non ci sono le entrate, manca il turismo interno, manca il turismo internazionale, se perlomeno i cittadini non si riappropriano del proprio centro, della propria città, e in qualche modo la fanno rivivere, la proteggono, c'è il rischio davvero che si perda dei punti importanti legati alla storia e alla cultura delle nostre città. Cursano, c'è rischio, tra i tanti messaggi, c'è Gianluca che dice: ma per me la situazione è normale, anzi pensavo peggio, stringiamo i denti, se tutto va bene tra poco si riparte bene, siamo convalescenti, vado meno di prima anch'io al ristorante, ma ci vado. Mentre Alberto dice: ieri pomeriggio stavo per entrare in un bar che per combinazione è stato anche l'ultimo in cui mi sono fermato appena prima del blocco totale, dentro però c'erano due persone senza mascherina, come anche senza mascherina erano i due baristi, e niente, così non ci sono entrato. Mentre Max dalla Romagna dice: ciao Roberta, noi abbiamo ripreso a frequentare i nostri ristoranti preferiti due volte la settimana e finora abbiamo sempre dovuto prenotare con largo anticipo perché sono sempre pieni. Un bacio dalla Romagna. Forse i romagnoli sono più festaioli, più socievoli, più, non lo so, Cursano. Beh, bisogna anche un po' stare attenti e distinguere le periferie, i luoghi che vivono in qualche modo un po' di mercato interno, in qualche modo hanno avuto un calo anche forte, però sopravvivono. Ma io ne sto parlando adesso dal mio ristorante e da un mio caffè qui nel centro storico di Firenze. Io le posso certificare che da un 100% di incasso adesso siamo al 10%. Serate come queste di 50-60 persone, io questa sera ne ho 12 e sono fortunato, mi creda, perché i centri storici, le destinazioni turistiche vivono di economia soprattutto turistica, sia essa interna ed esterna, ed essendo che anche le abitazioni dei centri storici sono state adibite a B&B e comunque a destinazione turistica, non c'è nessuno nei centri storici, perché i cittadini in qualche modo sono stati orientati nei centri commerciali, quindi c'è una sofferenza estremamente forte sugli ambiti turistici che, ripeto, ad oggi si attestano sul 10% del loro fatturato. Cursano, mi dica una cosa, siccome invece per quanto riguarda le discoteche si parla del 14 luglio, c'è naturalmente tutto il settore che lamenta questa chiusura prolungata, lei cosa ne pensa? Beh, anche questo io lo considero un errore, perché i giovani hanno il diritto di esprimere la loro giovinezza, non si mandano a letto. Se si vuole combattere in qualche modo o contenere la movida che dura fino a tarda notte nelle piazze e nelle strade, l'unica occasione era creare, dopo una certa ora, a chiusura dei locali, degli spazi, degli ambiti sicuri, controllati, in cui questi ragazzi potessero andare a vivere la loro socialità e la loro voglia di stare insieme. Averlo forse è difficile il distanziamento dentro una discoteca, Cursano, magari. Ma secondo lei in una piazza in cui ci sono migliaia di persone rispettano il distanziamento. E si tratta un attimino di avere spazi comunque con un minimo di controllo, con un minimo di prevenzione, con un minimo di addetti che cercano, ripeto, di creare maggiore consapevolezza. Però pensare che dopo le due che chiudono i bar e le attività, che le persone, che i ragazzi vadino a letto, è un'illusione, perché rimangono in quelle strade dove la gente dorme, dove la gente vorrebbe. E quindi secondo me è un errore, andavano fatte rispettare le regole, ma dare... Ho visto che i presidenti di regione chiedono delle aperture anticipate, però intanto fermiamoci qui. Aldo Cursano, io la ringrazio e auguro buona fortuna a tutti i bar e ristoranti, e speriamo di riprendere tutti una vita normale per il bene di tutti. Grazie Cursano, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. Torniamo adesso su, soffermiamoci sugli aggiornamenti relativi alla mancata istituzione della zona rossa in Valseriana, cioè la zona del Bergamasco che comprende i comuni più colpiti dall'epidemia da coronavirus, cioè Alzano Lombardo e Nembro. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni e anche ieri dell'inchiesta della Procura di Bergamo che va avanti. Domani saranno sentiti, come persone informate sui fatti, Conte, la ministra Lamorgese e il ministro Speranza, e poi sono già stati sentiti nei giorni scorsi i vertici della Regione Lombardia, cioè il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al welfare Gallera. Che novità ci sono? Lo chiedo alla nostra Raffaella Calandra. Tra l'altro ieri con Raffaella abbiamo parlato anche della manifestazione del comitato dei parenti delle vittime del Bergamasco, Noi denunceremo, no? Che hanno presentato le prime 50 denunce. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, infatti ne avevamo parlato ieri e continuano ad arrivare altre denunce che vanno proprio anche nella direzione dei quesiti che i magistrati stanno cercando di risolvere con i vari filoni dell'inchiesta. Uno di questi filoni riguarda proprio la mancata istituzione della zona rossa. Per questo appunto, dopo aver sentito ieri il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e poi oggi il consulente del governo Walter Ricciardi, domani, come ricordavi, ascolteranno il premier Conte e i ministri Lamorgese e Speranza dell'Interno e della Salute. Cioè i magistrati ora vogliono capire, innanzitutto ricostruire che cosa è successo in quei giorni tra fine febbraio e inizio di marzo, per poi valutare se quelle decisioni sono state decisioni comunque dettate da scelte politiche insindacabili oppure no, e se eventualmente ci sia stato un collegamento, un nesso tra le scelte che sono state fatte e quanto poi è avvenuto in Valseriana in termini di esplosione del contagio e della letalità. Questo è un quesito importante perché comporterà la direzione di questo pezzo di inchiesta e in caso anche, eventualmente, questo è soltanto uno scenario, il passaggio degli atti al Tribunale dei Ministri se ci dovessero essere, diciamo, delle direzioni che riguardano le scelte governative effettuate. Tra l'altro Raffaella, è oggi Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, appunto città estremamente colpita dal coronavirus, ricordiamo, abbiamo detto mille volte le immagini dei camion che portavano via le bare, ha detto in un tweet, leggo, che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid, non si sa però dove, in quale provincia, perché la regione non comunica più i dati divisi per provincia. Questa è l'accusa di Gori, cioè che criptano, che insomma cercano di nascondere i vertici della regione i morti divisi per provincia. Oggi la regione ha risposto tutto falso, si confonde, eccetera, eccetera. Quindi continua a esserci molta, molta tensione intorno a questo tema, no? Sicuramente, senza dubbio, sicuramente c'è un livello che è un livello di accuse politiche, di schermaglie politiche tra il sindaco Gori del PD, la Lombardia diretta appunto da Fontana della Lega, ma al di là, diciamo, delle schermaglie politiche c'è un tema che è un tema comunque molto, diciamo, sentito. Di sicuro c'è un elemento che riguarda il numero dei morti, perché sappiamo bene che il numero dei morti riguarda soltanto quelli a cui sono stati effettuati i tamponi, mentre tutti quanti, soprattutto nella Bergamasca, medici ma anche sacerdoti, da tempo raccontavano già da prima di tutte le tante morti che sono avvenute senza aver avuto una diagnosi. E poi dall'altra parte c'è un tema che anche i cittadini forse, diciamo, meritano di essere messi al corrente anche della qualità di questi dati, cioè ormai sono 3 mesi, meriteremmo di sapere dove avvengono ad esempio questi nuovi contagi. contagi all'interno delle famiglie, nelle RSA, nei luoghi di lavoro. Quindi, la regione, insomma, Lombardia, forse al di là delle schermaglie politiche, qualche risposta in più anche alla cittadinanza potrebbe darla. Più trasparenza, insomma, vedremo nei prossimi giorni. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, poi ci aggiorniamo sulla inchiesta Procura di Bergamo. Ciao Raffa. Adesso invece parliamo della ripresa della Coppa Italia maschile già da domani, Carlo Gente, è vero? Ciao Carlo. Ciao Roberta, ciao. Sì, domani si riparte. Comincia la Coppa Italia, comincia il calcio, ricomincia un pezzo di vita degli italiani. Quindi domani c'è Juventus-Milan, ma al di là della partita ha un valore estremamente simbolico perché segna appunto l'inizio di un ritorno ad una vita più o meno normale. Quindi mi auguro che un po' tutti, anche quelli che non seguono il calcio, seguano o quantomeno rispettino questa sensazione di chi lo sport lo segue, lo vive. Noi ne parliamo ovviamente, ma ci sono milioni di persone, milioni di italiani che lo vivono come una parte del ritorno alla loro vita normale, Roberto. Carlo, ma a che ora dovrebbe iniziare la partita Juventus-Milan? Inizia alle 21. Alle 21 c'è effetto notte, comunque uno può tenere un orecchio da una parte e l'occhio dall'altro, se proprio. Beh, sicuro, tra l'altro sulla Rai 90 minuti più non supplementari ma direttamente calci di rigore, la Juventus nettamente favorita, però ripeto, non è tanto il fattore agonistico quanto il fatto che è un simbolicamente simbolo di una ripresa, di una vita che proviamo a vivere normalmente. E il nostro Carlo Gente naturalmente domani torna come tutti i giorni alle 14 con tutti i convocati, qualche volta lo convoco grazie. Anch'io. Ciao Carlo Gente. Ciao, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te. Vinceremo anche questa sera, anche per sempre. Sentiamo le 22.